Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 4 luglio 2015. Siena è la prima provincia italiana carbon free. La terra senese è la prima area vasta italiana a poter vantare nel nostro paese un bilancio zero per le emissioni di gas climalteranti. Anche se la certificazione arriverà tra qualche tempo, l'obiettivo è stato virtualmente raggiunto già in questi mesi, come lasciava prevedere l'ottimo ruolino di marcia degli ultimi anni. Crescita della percentuale di energia prodotta con fonti rinnovabili, forte riduzione di sprechi e consumi, ristrutturazione degli edifici, contributo dei cittadini su tanti fronti. Il risultato ottenuto dalle azioni messe in campo dall'amministrazione provinciale ha avuto anche un effetto volano per la crescita economica. Fin qui la notizia del 4 luglio 2015, ma come diciamo sempre, il futuro ha radici nel presente. In questo 2012 la provincia di Siena ha approvato un piano energetico che punta a dare concretezza a un obiettivo ambizioso. Oltre a edilizia, risparmi e fonti rinnovabili, si lavora anche su formazione e sensibilizzazione dei cittadini. L'assessore Gabriele Berni. Siena Carbon Free 2015 è un progetto che si propone il raggiungimento del pareggio nel bilancio delle emissioni dei gas climalteranti all'interno del nostro territorio, ovvero che alla quantità complessiva delle emissioni dei gas climalteranti corrisponde la capacità di riassorbimento del nostro ambiente naturale. Noi siamo partiti con un dato che è relativo al nostro bilancio delle emissioni, che è certificato da un ente terzo, ovvero dal RINA, il Registro Italiano Navale. I dati che noi abbiamo partono dal 2007 con un bilancio che ci dava il 71% della capacità di riassorbimento. Noi ci siamo attribuiti un obiettivo che è appunto quello di raggiungere il 100% nel 2015, un obiettivo che sta in linea con le direttive comunitarie a partire dal protocollo di Kyoto, dagli obiettivi del 20-20-20, e abbiamo accorciato i tempi, come dire, siamo stati un po' più ambiziosi. Le azioni che abbiamo declinato all'interno del piano da condividere con le amministrazioni comunali sono 57, alcune di queste sono già in corso ed altre dovranno essere implementate grazie al contributo appunto di tutte le realtà che sono presenti e condividono questo obiettivo sul nostro territorio. Come stanno reagendo i cittadini e le amministrazioni? Da parte della nostra realtà, della nostra comunità, mi verrebbe da dire, nel suo complesso c'è una forte attenzione, spesso la consapevolezza assume un atteggiamento passivo. Dobbiamo, come dire, lavorare ancora di più perché questo patrimonio culturale diventi un patrimonio culturale che si traduce in maniera molto più attiva. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.